Bologna è una città che ha sofferto tanto, penso alla strage della stazione e penso al processo adesso in corso anche qui in questa città, che ha saputo lottare e costruire tanto. È una città civile, una città di democrazia. Noi siamo qua con le nostre diverse voci, quelle di tutti gli antifascisti, delle associazioni antifasciste, dei deportati, dei perseguitati politici, delle associazioni laiche e cattoliche, dei tre sindacati, dei partiti antifascisti. Insomma, in un momento in cui nel paese molti si dividono e si contrappongono, noi portiamo in piazza e lo porteremo visivamente con le nostre compagne, i nostri compagni, i nostri amici, la forza dell'unità per difendere la democrazia. Ecco, a tutela della democrazia, quello che ha fatto il presidente Mattarella per voi è una cosa giusta, era la cosa da fare? Dunque, io non le nascondo che abbiamo opinioni diverse, quindi io adesso le parlo come presidente dell'ANPI. Noi abbiamo espresso il massimo della solidarietà al presidente Mattarella, lo ha fatto, l'avete sentito, anche Don Ciotti per Libera, per un motivo fondamentale: il presidente Mattarella ha esercitato una funzione di garanzia. Ora, la funzione di garanzia non è che si può contestare una volta e poi non succede più niente, perché è la prima volta che c'è una legge da firmare o da controfirmare e il presidente magari ha dei dubbi e si tornerà a questo precedente. Quindi bisogna rispettare le autorità nella loro autonomia. I cittadini hanno votato per il Parlamento, noi non siamo in una repubblica presidenziale, siamo in una repubblica costituzionale. Il presidente ha avuto questa prerogativa e ha questa prerogativa e l'ha esercitata. Io penso che dopo le urla, le grida, la minaccia di impeachment di ieri, dei giorni scorsi, oggi si stia ritornando a ragionare un po' di più. E quindi bisogna da tutte le parti che ci sia la pazienza del dialogo, che è la forza della democrazia. Presidente, un'ultima cosa: avete raccolto le firme per dire stop fascismi? Se ci sarà il governo Lega 5 Stelle, Salvini diventerà il ministro dell'interno, su queste cose conterà? È preoccupata? La raccolta di firme è partita prima della campagna elettorale. Noi avevamo già chiesto all'allora ministro Minniti di sciogliere, di impedire che venissero, diciamo, si presentassero alle elezioni questi due partiti, in particolare Casa Pound e Forza Nuova, che poi non so se possiamo parlare di partiti o associazioni o quant'altro. Non siamo stati ascoltati, ma ritorniamo sul tema. Non sarebbe la prima volta che si scioglie un'associazione fascista in Italia, è già successo perché le leggi Scelba e Mancino e la 12ª disposizione finale della Costituzione ce lo consentano. Beh, certo che il fatto che il leader di Casa Pound dice che gli piace il governo non è che ci fa piacere, non ci fa nemmeno paura. Noi vorremmo giudicare anche questo governo dai fatti. Il programma ci preoccupa in certi aspetti, il cosiddetto programma di governo, perché quando si scrive che gli asili sono accessibili solo ai bambini italiani e sono interdetti ai bambini stranieri perché gli si priva di tutte le possibilità di tutela sociale, e quando si scrive che, diciamo, il reato di tortura, quando si cancella il reato di tortura, quando si dice che per autodifesa si può usare anche la pistola, sono cose che sono preoccupanti. E quando soprattutto si dice il rimpatrio forzato di 600.000 persone, tra cui ci potrebbero per esempio anche essere alcuni che sono qui per asilo politico, ma l'asilo politico viene cancellato da qui. Cioè, io credo che siano problemi che interessano anche gli amici dei 5 Stelle, che probabilmente apriranno una contraddizione anche nel loro dibattito, e comunque spero che tutti insieme ci si possa ragionare.